X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gelminello Alvi, 60 anni di Ancona, laureato in economia e commercio, sposato, due figlie, tante vite, economista prima, giornalista, editorialista poi, ha scritto per l'Espresso, il Giornale, Corriere della Sera, La Repubblica, appassionato di arti marziali e di geometria complessa, autore di tanti libri, dalle Seduzioni economiche di Faust, è passato al Secolo americano, alle Vite di uomini e donne eccentrici, titolo del suo ultimo libro. Giovanissimo e assistente di Paolo Baffi, governatore della Banca d'Italia. Ecco Alvi, nel 79 Baffi e Sarcinelli furono incriminati di favoreggiamento per non aver esercitato la vigilanza sugli istituti di credito. Siamo sempre lì più o meno. Sì, parte duro, parte deciso, parte... Ma che devo dire? Sì, il mio ricordo è quello del professore che parlava di questo evento anni dopo con grande prudenza e sospetto, senza avere poi fino in fondo compreso cosa gli fosse accaduto e quanto l'Italia sia una nazione davvero sorprendente e complicata. Ah, che esperienza è stata complessivamente quella di Banca d'Italia? Utile? Formativa? Ma guarda, io fu reclutato dalla Banca d'Italia per andare appunto in questa banca dei regolamenti internazionali in Svizzera a fare l'assistente del professore di Baffi. Fu una importante esperienza perché era la banca delle banche centrali, allora certo. Non c'era la BCE, la banca dei regolamenti era quella che serviva a quello. E quindi lì ho visto appunto i primi tentativi piuttosto strani di costruzione dell'euro. Mi ricordo appunto un economista tedesco con la Porsche e Paolo Schioppa che ogni tanto veniva, e soprattutto mi ricordo l'ambiente di assoluta, come dire, incredulità che accompagnava, soprattutto da parte dei banchieri centrali. Non ci credevano. Un'opera d'arte di un sindacalista cattolico, di un cislino francese, di Delors, che l'incastrò in una maniera rocambolesca. È vero, cioè? Insomma, un po' come nei concili... E in qualche modo è stato più bravo di loro. Ha messo all'ordine del giorno questa eventualità che era discussa come un caso scolastico, eccetera. E però era prima del crollo del muro. Poi certo, col crollo del muro arrivò appunto la globalizzazione e disse: nous avons la bomba atomique, ma ils ont le démarque. E questo non può andare. E allora. Senta, adesso però, per motivi del tutto diversi da allora, quasi opposti, la Banca d'Italia torna nell'occhio del ciclone. Lei che si è fatta di questo ciclone? Avrebbe dovuto intervenire la banca? Ma guardi, io non ho elementi per giudicare, non ho seguito la vicenda. La mia impressione è che sia un'istituzione enormemente indebolita. Con la BCE oramai... Ecco. E mi sembra anche che ci sia stata un'emorragia di talenti negli ultimi decenni e che è assolutamente evidente a noi, insomma, non abbia più quel ruolo, non ce l'ha per obiettivamente. Certo è che appunto qualche dubbio c'è. È più che lecito. Senta, ma lei che ne pensa del decreto salva banche, se l'ha seguito e se ha un'opinione? Ma sa, alla fine corrisponde a una, come dire, a una direttiva europea e tutto sommato stabilisce anche un principio di responsabilità, il che, considerato il fatto che la mala amministrazione per solito viene poi sempre rimandata ai finanziamenti statali, è meglio così. Molte cose in Italia buone evolvono poi male, ad esempio come le fondazioni bancarie, trovata splendida Ma secondo lei intanto il ministro Boschi si deve dimettere? Il ministro Boschi è una persona così graziosa, così... Non so bene che... Insomma, è tutto questo donnaio berlusconiano o piddino, renziano, non so bene. Di questo donnaio però lei la presenta, come dire, un'evoluzione positiva. Quindi è meglio che ci resti, va bene. Senta, lei non si occupa più di banche, però lo capisco, ma di persone, di eccentrici. Ma il governatore della Banca d'Italia, Baffi, per esempio, era un eccentrico? Ma il governatore della Banca d'Italia era un uomo che veniva da una famiglia umile e che aveva appunto, si era rovinato la vista per studiare, perché poi trascriveva per mantenersi agli studi le dispense alla Bocconi, c'era andato con una borsa di studio, la madre era una sartina, orfano, e insomma era un uomo di grande forza morale e di grande fascino, un po' alla Gadda, quei grandi lombardi d'una volta. Ma chi sono gli eccentrici, se si può dire? Ma sai, gli eccentrici sono quello che tutti vorrebbero essere, soprattutto in un mondo di eccezionalità standardizzata. Esatto. Questo è un mondo in cui tutti comprano l'originalità al supermercato, in televisione. Quindi è un argomento piuttosto banale, perché tutti vorrebbero essere. Però lei, nel suo libro pubblicato da Delphi, racconta 42 personaggi tra esoterici, alchimisti, attori, inventori, capi indiani. E chi è il più eccentrico di questi che racconta, secondo quello a cui è più affezionato, diciamo? Beh, è Oliver Hardy. Perché? Perché Costalio sono due innocenti in un incubo, sono l'immagine di come si scenda nella vita, appunto, ci si incarni mossi da un desiderio di simpatia e di attività, e come appunto con tutto il candore e con tutta l'ingenuità che si possa applicare a questo fine si incontra inevitabilmente poi un destino. Senta, ma da incubo è però comico. Che però comico, ma perché sono più uomini che donne questi eccentrici che descrive? Perché, come appunto sa bene la teologia ortodossa, le donne sono un soborne, sono un concilio e quindi hanno pensieri multipli. Quindi parlando di una donna ne parla di 7-8. Con una donna è impossibile ragionare, hanno 7-8 ragioni parallele. Certo. Quindi vinta una, ne restano 9 che vincono. Senta, ma c'è anche Cary Grant nel suo libro, un talento riconosciuto, fatto di tanta gavetta, tanta fama, ma perché tra gli eccentrici Cary Grant? Beh, perché appunto è lui stesso. Un mistero a se stesso. Sì, è lui stesso che desidera essere Cary Grant. Perché Archie Leach è un acrobata inglese con una storia dolente, molto dolente, che emigra in America e che costruisce, modifica il proprio linguaggio, appunto, da working class inglese. E costruisce, appunto, lui stesso costruisce Cary Grant. Ecco, Alvi, lei. Invece, chi vorrebbe essere? Quello che sono. Ah, va bene così, eh? No, non va bene così perché credo nel miglioramento eterno, ma credo che non si possa sfuggire. Lei è un appassionato di arti marziali, l'ho scoperto documentandomi, ma in particolare dell'unica arte marziale di origine russa che si chiama sistema. Che cos'è? Io ho praticato varie arti e l'ho coltivata come una forma di educazione civica e di igiene, se vuole, di salute. E devo dire che questa arte marziale russa è molto interessante, è l'unica arte marziale cristiana e non c'ha schemi motori, quindi educa un'attitudine ed è diversa dagli altri, molto per diversa, questo perché non c'ha, vede, la maggioranza delle arti marziali costituiscono dei meccanismi di plagio nelle quali un maestro in qualche modo costruisce appunto una maestria e c'hanno anche una certa difficoltà a essere pratiche. Se lei incontra uno che non c'ha niente da perdere, per quante arti marziali abbia fatto, è la determinazione, la forza interiore quella che decide. Il vantaggio di queste arti marziali russe è appunto questa mancanza di schemi motori e questa estrema fortezza e costruzione appunto di un sistema muscolare di rilassamento, appunto. Ma è vero che quest'estate è stato in Canada per conoscere una comunità di russi che pratica sistema? No, io ho un informazione amico, sbagliata? Beh, io ho un amico appunto lì e appunto sono approfittato di questo per andare anche a trovarlo e sì, mi sono allenato. Insomma, è vero. Con lui, con i suoi amici, eccetera. Okay. Senta, a proposito di russo, lei parla benissimo russo. Ha insegnato economia all'università di Mosca, no, di Pietroburgo. Cosa le piace della Russia, oltre all'arte marziale e la lingua? Ma guardi, sì, ho appunto fatto delle ricerche in Russia, anche all'università di Pietroburgo, ma oltre della Russia mi piace l'infantilità, anche se intendo, non c'ho, come dire, fascinazioni alla Dostoevsky, ma di Putin ma è affascinato? Le piace? Ma Putin è quello che la Russia merita e che può avere. Non e cioè? E cioè un altro Yeltsin sarebbe una tragedia. Una nazione come la Russia, senza un uomo forte, senza una direzione nella quale appunto ci sia, ci sia l'ortodossia, la patria, la famiglia, e difficilmente... Ma è un eccentrico secondo lei? Ma è una persona probabilmente migliore di come viene descritta. Ma nella lotta al terrorismo lei pensa che sia impegnato realmente Putin più di Obama? Ma i russi sono persone mai da sottovalutare, molto intelligenti. Credo che sia una mossa necessaria a uscire dall'impasse ucraino e al contempo appunto a neutralizzare eventuali appunto insurrezioni o fastidi di terrorismo islamico nel Caucaso. Cioè, è meglio Putin come guida? Per uscire dal terrorismo, dalla lotta al terrorismo, cioè per farsi guidare nella lotta al terrorismo. Se vuole che le dica che mi sta più simpatico di Obama, sì. Beh, questo mi pare più chiaro. Simpatico. Sì, va bene. Senta, torniamo in Italia. Nel suo libro lei scrive: a nessun altro riesce così bene come a certi italiani di essere settari e al contempo astratti, snervanti, però simpatici, come fu Amedeo Bordiga, che nacque nel 1889. Quindi per trovare un eccentrico tra i politici italiani è risalito fino a Bordiga, dopo di lui più nessuno. Ma sa, Bordiga è interessante perché è un settario ostinato e nella sua coerenza fa da mette in risalto tutta la follia, l'ipocrisia, la menzogna, il difetto morale che è in ogni politica. La politica inevitabilmente è amorale. Certo. Ecco. Ma Renzi è un eccentrico secondo lei o no? Ma Renzi, nessuno lo dice, ma se scrivessi ancora come scrivo una volta sui giornali lo paragonerei a Stenterello, a una di queste persone, a queste maschere fiorentine, chiacchierone e un po' moleste e divertenti nella loro molestia. E il paradosso è che questa figura è considerata dagli italiani, direi, una delle ultime chance. Dagli italiani anche di buon senso, i quali dicono: beh, dopo di lui. E lei ha buon senso nel giudizio? Ma forse più di quanto non appaia. Quindi lo considera anche lei un'ultima chance? Guardi, viviamo in un momento nel quale la globalizzazione sta distruggendo stati ben più consistenti del nostro, se pensiamo alla Gran Bretagna che si sta dividendo di fatto in 4-5 aree territoriali, una delle quali è Londra, l'area inglese. E quindi lei dice che teniamo, qualche modo teniamocelo stretto? No, non dico questo. Non dico questo anche perché non ho poi molta simpatia per quella parte politica, nemmeno per l'altra, per i donnai dell'altra. Ma insomma, no, non dico teniamolo scritto. Ma però dico... lei ha scritto qualche anno fa: le sinistre hanno dalla loro parte tutto, umorismi prezzolati, magistrati, vescovati, reti di fondazioni bancarie, sono inoltre esperti di ogni ricatto, facendo politica per mestiere dall'infanzia, eppure falliscono da 20 anni la conclusiva conquista del potere. Beh, Renzi mi pare che invece ce l'ha fatta. Renzi non mi pare una persona di sinistra, mi pare un democristiano, un brillante appunto... replicatore, un battutista, non mi pare uno all'interno della tradizione della sinistra. Anche se, perdoni, ma questo è importante, è assolutamente importante per costoro che non riescono mai a fare quello che vogliono, perché hanno un pretesto per continuare a rompere le scatole all'infinito. Mi spiego? Certo. Ecco, l'Italia unita è finita, ha scritto lei, anche se a Roma se ne continua la recita. L'ha detto lei, non l'ha detto Salvini, sembrerebbero parole di Salvini. Ma se le piace Salvini? Guardi, io ho 2-3 antenati morti con Garibaldi. Detto questo, Garibaldi era un eroe, ma appunto mi pare che tutto questo stato unitario non c'ha più senso. Quando una nazione cresce, appunto, ma non solo economicamente, ma è una nazione divisa in 3-4 bande o parti segnata. Salvini mi pare che questa idea l'abbia abbandonata, nel senso Miglio aveva questa idea, Salvini no. Quella della secessione, certo. Lei dice però: oggi noi italiani ci ritroviamo a vivere senza l'euro che ci avevano promesso e che avrebbe dovuto superare le nostre criticità. Ci ritroviamo invece con le stesse problematiche della lira, senza la possibilità di fare una politica monetaria. Quindi dovremmo uscire dall'euro? Quindi si sapeva, agli italiani non è stato spiegato che cosa estremamente complicata fosse stata l'euro. È stata pensata come una semplificazione, un po' come se chiudere i postriboli servisse a risolvere il problema della prostituzione. Togliersi la lira risolveva i problemi della moneta. Non è così. E uscirne è piuttosto complicata, richiederebbe una classe dirigente molto seria. Gli unici forse in Europa che potrebbero riuscirci sono i francesi. Noi, la nostra uscita dipenderà semmai dall'evoluzione della situazione francese, come dipesa del resto la nostra unità d'Italia. Vede che tutto ritorna. Ritorna, è vero. Ecco, ma lei ha mai votato per Salvini? Non glielo dico. No, non me lo dice, fa bene. Senta, è di Grillo che mi dice? Dico che appunto anch'io vivo in una città di mare, capisco molto queste durezze, queste... questo modo di fare, eccetera. Al contempo sono terrorizzato dalle persone che non amministrano la parola. La parola è forse la droga più terribile. Cioè, le parole in libertà sono pericolose. No, questa gente che vive parlando, vive affabulando, e alla fine diventa una... Beh, è passato da comico a politico, forse qualcosa di eccentrico c'è in lui. Non era, però. Però in Italia non era difficile, non era da eccentrici, considerata. Ah, se non dice che comici che hanno fatto politica sono tanti, Albi. Questo è il suo punto di vista. Che abbia iniziato lui a farci ridere. Senta, ma perché le piace la geometria, in particolare le coniche? Che cosa sono esattamente? Scusi la mia ignoranza dettagliata. Io mi ero laureato con una tesi di economia matematica, sono appassionato di osservazioni astronomiche, eccetera. Lì ci sono certi problemi che riguardano appunto le meniscate. Le coniche sono importanti perché sono un punto di equilibrio, se vuole, dal dentro e fuori, tra il punto e la linea, e configurano appunto un respiro, se vuole, dell'anima. Le ho dato una risposta. No, molto, molto interessante. Ma dai tempi d'Apollonio è così. Finché finché ci sarà la civiltà umana, ci saranno le coniche. E quindi, diciamo, c'entra con un economista appassionato di arti marziali questo amore per le coniche, in qualche modo, Albi? Non lo so. Ognuno cerca una coerenza, ma ripeto, noi siamo molte vite insieme, non una. Ah, tutte donne siamo allora. Sì, questo è un paradosso. Va bene. Senta, ma per lei, Albi, le donne sono molti pensieri, molti, noi siamo molte vite, bisogna essere precisi. È diverso, ha ragione. Nomina assunta. Senta, ma per lei, che è un eccentrico, mi pare abbastanza chiaro, visto da se stesso, come si definirebbe? Ma guardi, io ci ho avuto un grande privilegio di essere molto amato, e questo è veramente un grande privilegio, quindi io sono un uomo fortunato. Molto amato e quindi fortunato, beato lei. Senta, parlando della sua generazione, lei ha scritto: a noi è stato concesso lo strano privilegio di essere sempre per poco fuori posto, troppo tardi, troppo presto, in intimo e segreto dissenso, a disagio anche quando siamo a nostro agio. Non è il suo caso, che è amato e sta bene, è così? Questa è la subordinata che non che è di troppo. No, l'ho messa io. Anche perché poi vede, a 60 anni mi distrago, perdo il filo. No, la domanda era? No, la domanda era se è sicuro che si tratti di un privilegio. Certo, quella è la sua generazione, dalla sua fino alla mia, cioè in un certo senso dai nati in guerra dopo la guerra, subito dopo la guerra, al 55-54, eccetera, si chiude una... Lì va tutto bene, pensioni, boom economico, tutto. Per noi iniziano i guai. Ecco, lei infatti ha 60 anni, ma dei quarantenni di oggi, allora, di quelli che i guai ce li hanno, cosa mi dice? Hanno ancora qualche privilegio o nessuno? Ma guardi, sono vittima di una cospirazione da che nascono, insomma, sono educati appunto al femminismo, a tutte le convenzioni più pregiudiziali, cioè è un indebolimento sistematico, la moda, quindi è una generazione che ha una vita difficile, ma questo può costruire grandi opportunità, ci sono delle crisis opportunity, quindi in un certo senso modo. Nella prova io imparai a nuotare, mio padre, mi ricordo, non mio padre, un portuale, mi ricordo. L'ha buttato in acqua se l'è cavata. E i ragazzi? C'è chi ha parlato di bamboccioni, chi ha definito generazione 1000 euro, chi li classifica come una generazione semplicemente smarrita. Lei che idea si è fatto? Ha dei figli? Guardi, ho avuto il privilegio di insegnare anche in vari momenti, in vari luoghi, eccetera. devo dire che bisogna avere una grande fiducia, una grande stima e smettersela di maltrattare queste persone. E anche di piangersi addosso. Sì, anche perché poi è un'ipocrisia, è chiaro, quando in una nazione ci sono 23 milioni di famiglie come in Italia, 16 milioni di pensionati che percepiscono 21 milioni di persone, lei capisce bene che è un discorso anche un po' fastidioso per un giovane. Certo, assolutamente. Le sue figlie, lei ha due figlie? Zwei Tochter, che hanno? Quanti anni? C'è una ventina d'anni, 23, 25, eccetera. Ah, più o meno, non li conta. Senta, e che fanno? Studiano in Germania, mia moglie è tedesca. Studiano in Germania e cosa si augura per loro? Se si augura qualcosa? Ma guardi, non sa che lei ci avrà anche lei figli, l'avrà sì, visto. Una, ecco, se allora una. L'avrà visto che è perfettamente inutile, come dire, augurarsi prevedere, qualcosa. Augurarsi, esatto. Eccetera. Senta, lei è il fondatore del giornale online La Confederazione Italiana e nel suo editoriale scrive: è il curioso destino di chi scrive di non sa però chi lo legge. Però su internet è ancora di più e lei ha scelto internet per pubblicare il suo giornale. Perché? Lì si sa ancora meno chi legge. Perché vede, internet è un modo formidabile di distruzione della cultura. È il vero nemico, ad esempio, del libro e soprattutto è la... Però lei l'ha scelto. È il dispiegamento dei dilettanti a risbaraglio. E tuttavia è il mezzo che ucciderà inevitabilmente la carta stampata. Che lo uccida? Questo è un male, certo, perché diminuisce le forze di concentrazione e quindi le forze morali. E proprio per evitarlo ho tentato con alcuni amici. Tenta di plagiarlo, insomma, in qualche modo, di sottometterlo. Tento di cavalcare la tigre, di fare una specie di judo. È importante, l'arte marziale su internet, anzi a internet. Senta, ma e degli altri mezzi di comunicazione, mica la televisione, anche lei è nemica della cultura o è un peggiorare progressivo dalle pergamene a internet? Quindi, qui c'è la superiorità della parola, poi c'è il decadimento della scrittura e l'inizio appunto della filosofia, poi c'è la fine della calligrafia e l'inizio della tipografia dei libri stampati, poi c'è la fine del libro, una tragedia. Poi c'è la televisione, è una tragedia continua, ecco, dice, per fortuna abbiamo una certa età, dice lei, no, non è detto però, però poi prova a piegare internet, quindi non mi sembra alla parola, che sia disperato. Alla parola. Senta, a proposito di libri, nel 2007 lei ha firmato la prefazione del libro di Bernardo Caprotti, Falce e Carrello, ecco, visto che non l'ha messo nel suo libro tra gli eccentrici, come lo definirebbe Caprotti? È come l'ultimo grande imprenditore del boom economico. E tra l'altro la persona a cui devo il privilegio di avere visto un libro sul quale c'era il mio nome messo all'indice, cosa che non succede. Cioè? Beh, fu appunto proibito, ne fu ritirato, fu chiesto il ritiro per un certo periodo, poi la cosa fu annullata in appello, ma è una di quelle vicende italiane che spiegano l'affermazione che facevo prima riguardo appunto al fatto che una certa parte è veramente tutto. Senta, ma alla fine... essere un eccentrico è un bene o un male dopo aver scritto questo libro, aver fatto tutte queste riflessioni? Non nell'accezione che ha dato lei prima, per cui tutti cercano di essere eccentrici nella loro banalità, ma esserlo veramente, cioè quindi individui consapevoli. Io, secondo me, appunto, in qualche modo il perseguire una vita normale in una certa misura è oggi la massima eccentricità, per paradosso, rispetto a una rincorsa continua nella quale tutti si sentono insicuri perché mai abbastanza originali o mai abbastanza... Questo è terribile, questa distruzione della vecchiaia, ad esempio. Questo fatto che non esistano più dei vecchi venerabili. Dei e grandi che il vecchio vecchi. Sia appunto uno che va in vacanza... Cioè la vita si allunga sempre di più, ma... il vecchio venerabile non c'è più, ci sono degli adolescenti, dei vecchi che fanno finta di essere degli adolescenti che ricercano questa e tutti capiscono di tutto e spiegano tutto, questo è terribile. Senta, del Papa che mi dice, lo trova un eccentrico? No, perché? Cioè le piace? No, non mi piace e non mi piace. Perché non le piace? Non mi piace perché probabilmente è fuori fuso orario, cioè stando a testa in giù in Argentina, insomma... Beh, è un mondo sempre... nuovo. È un mondo nuovo, sì. O meglio, è un mondo vecchio che arriva qui in ritardo, cioè sono tutte cose da anni 70 che rivengono fuori e e mi, appunto, mi lasciano più non sono dubitoso. Cose di cui sono cose un uomo ha piacciono. Bisogno non sono cose di cui l'uomo ha bisogno, cose semplici come dice lei. Sono appunto, è una concorrenza appunto politica, mi pare appunto una cosa che può compiacere Bertinotti, Bendola eccetera, non so quanto compiaccia appunto. Ma lei in Dio ci crede? Religioso. Direi... La domanda è teologicamente delicata. È teologicamente delicata, ma teologicamente delicata, cosa mi risponde? Le dico che se si crede poi alla fine si fa un grande atto di presunzione nel dare il credere, o si è o si, cioè, o si è o si crede. Senta, quindi lei è un aspirante cristiano, vorrebbe che si riconosce, che si riconoscesse in lei questa, ecco, in Cristo, di Cristo possiamo parlare, per il resto mi terrei alla cioè Bibbia, la Trinità, direi, non la nominare... Trinità fa più fatica. La Trinità è proprio quella che invece mi persuade, mi convince, la Trinità. Quindi questo Dio uno trino è abbastanza eccentrico. Il Dio indistinto no. E quindi questo Dio uno e trino invece è abbastanza eccentrico. È abbastanza, è certo. Grazie a lei. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Beh, particolare questo Geminello Alvi, eh? Beh, sì. Bracelli, cioè, abbastanza sorprendente. I nostri ascoltatori sono un po' spaesati, insomma, rispetto ai faccia a faccia normali. Perché? Cosa andava? Beh, di tutto, insomma. È un letterato economista. Fanno fatica a capire i riferimenti, lo considerano... con un linguaggio un po' aulico, non essere reticente. No, non sono reticente. No, dico, è un eccentrico lui. Lui è un super eccentrico anche nel linguaggio. Insomma, appassionato di comiche, di coniche, queste coniche hanno... Sì, sulle coniche ho avuto anche un momento di smarrimento. Di coniche di comici, è la bellissima definizione di Stanlio. Le coniche a livelli di massoneria altissimi, non lo so, scrive... Chi uno, lo scrive? Uno che non si firma. Dai. Sembra cose strane. Ma vabbè, sì, un po' esoterico. Fa pensare. No, insomma, mia... Vabbè, era un'intervista diversa. Che titolo faresti dell'intervista tu? Non c'è pensato. Viva le anzi, oggi le coniche. Oggi le coniche. Mi è venuto così. No. E tu, Pietrangelo? Molti pensieri sono le donne, uno è l'arem. Molti pensieri sono le donne, uno è comunque l'arem. Il libro di Geminello, Il secolo americano, molto bello. Molto bello. Sì. Vabbè, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS se volete aggiungere riflessioni. Intanto noi sulle coniche in particolare partiamo con la musica in poesia, o anzi la poesia in musica, e così andiamo in bellezza proprio. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save, better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Why do you smile like you? Che cos'è? Oggi si stabilì un segreto. Oggi siamo tutto sigillato in tasca, chiuso in un mistero oggi, avvolto di fiori, altrimenti detti giuri. Per fortuna arriva Natale. E ipnotizzati in un fuoco, appunto, a maggior ragione, perché il Natale non fa altro che confermare il solstizio, e quindi quella luce che è contenuta nel buio esplode. È successo che stamattina, proprio in Piazza Indipendenza, sotto la redazione qui a Roma, una Renault 4 è passata e fu tutto un fugace lampo biondo alla guida. Erano le mani guantate sul volante, occhiali Cartier e lo chic di un pugnale lanciato in diagonale per afferrare le carni di un torello sacro. Sapete, era Persefone e ha voluto questa canzone e la dedica. E la dedica, l'ha dedicata Persefone a... A chi? Non vi dico a chi. Vabbè, lo sappiamo. Valentina. Un'altra volta, no. Vabbè, ho capito, stamattina siamo proprio così. Ecco. Eppure abbiamo studiato la puntata, no? No, mamma mia. Meno male che l'abbiamo studiata. C'è venuta così così oggi. Beh, tu vabbè. Mario dove... No, io sono serio, dai. Facciamo una cosa, se ci prova, abbiamo proviamo parlato. Proviamo a recuperare. Qui. Dai, vai. Anni 80 erano anni urgenti di grande crescita economica. Questi sono gli America, fantastici. You know darn well when you cast your spell. Il brano è You Can Do Magic. E andiamo in America. Allora, ieri la Fed ha preso la grande decisione. E Giovanni Minoli, mentre stamattina preparavamo la trasmissione, io stavo scrivendomi le mie bolle, no? Noi le scriviamo, ci prepariamo tutto, ovviamente siamo molto precisi. A un certo punto mi fa, sì, però... secondo me tu devi insomma un po' spiegare che cosa sta succedendo. Beh, sì. Perché c'erano prima i tassi bassi e perché ci sono adesso i tassi più alti. Allora, ci provo. Proviamo a vedere se si capisce. Se si capisce. Diciamo, usiamo la metafora. Dicendo, ti faccio delle domande. Perché dicendo che no, ci ti sono... faccio. Fammene fare una mio... almeno. Sì, ho un mio filo. Vabbè, e poi ti inserisci. Il mio filo è motore caldo, motore freddo. Allora, noi nel 2008 avevamo il motore della macchina freddo. Cosa fa un automobilista quando il motore della macchina è freddo? Cerca di scaldarlo, perché altrimenti succede il patatrac, la macchina non cammina. Ed è per questo che a quel punto si abbassano i tassi. Perché si abbassano i tassi? Perché riducendo i tassi di interesse di riferimento, poi, calano i tassi su tutti gli altri settori del sistema economico. Sei abitazione. Sicuro, sei sicuro che sia un modo più chiaro di spiegarlo? Sì, certo, perché vai a fare il mutuo e ti compri l'abitazione a un prezzo migliore del mutuo. Avvio di cantieri edili, investimenti delle imprese. Quindi la diminuzione dei tassi di interesse alimenta poi che cosa? Una cosa che si chiama domanda, quindi spese così via, e scalda il motore. E scalda il motore. Poi... cosa è successo dopo? Dopo è successo che tutto quanto si è scaldato troppo. Cosa succede quando la macchina si scalda troppo, quando il motore si surriscalda? Che devi per forza accelerare, se no cosa succede? Fondi il motore. Allora, ecco che cosa fanno le banche centrali. Le banche centrali alzano i tassi di interesse. L'aumento dei tassi overnight, si chiamano così tecnicamente, cioè dei soldi che si prestano. Come si le dice? Banche gli dopo puoi interrompere i tassi overnight, si chiamano così. Il tasso overnight regola i rapporti e poi dice che gli scambi tra del denaro le tue banche, guarda, overnight, vedi cosa combinano. Non si può fare una cosa così, ma dai Mario, sei overnight. Due, insomma, il motore è troppo caldo, bisogna raffreddarlo, perché l'America cresce. Non ho più capito se deve essere caldo o freddo sto motore. In questo momento bisogna raffreddarlo rullo, un po'. Rullo, quasi rullo. Fermi tutti. In questo momento bisogna raffreddare pure il telefono. Vabbè, una puntata straordinaria. Oggi strano, eh? Allora, il motore è caldo e lo devi raffreddare. Il motore è freddo e lo devi scaldare. In questo momento il motore dell'economia americana è caldo, va un po' raffreddato, perché sennò ci sono problemi. Questo è il punto fondamentale della faccenda. E Gecko che dice? Lo facciamo parlare? Io non creo niente. Io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Senti Mario, prima di andare avanti con Gordon, ci chiedono tutti, sì, telefono. Se per noi ci sono conseguenze. No, vogliono sapere il nome dell'intervistato. Geminello Alvi. Geminello Alvi, il suo libro Gli eccentrici. Io pensavo fossero preoccupati per la Federal Reserve. Non gliene frega niente. Tutti, no, niente, capito? Interessati. La bravi, motore caldo. Motore caldo, motore freddo. Non ha entusiasmato. Non l'hanno capito, no, dicono no. Dalla regia, come me, anche in regia. Pazienza. Motore caldo, motore freddo. Più chiaro di così, Simone. Andate in macchina, spingete il motore al massimo e fondetelo. Sì, vedete che lo capite. È il rapporto con la Federal Reserve che non è chiaro. È il denaro. Vedi che è un paese che non sa niente di sta roba. Non sa niente. Vi meritate le obbligazioni subordinate. Va bene, va bene, io non l'ho comprato. Ecco. Vai, vai, Pietrangelo, tocca a te. Non si tiene un cecio in bocca. È più forte di lui. Aveva pure fatto slalom alle domande ficcanti, le ficcanti domande di Marcello Sorgi e di Antonio Polito. E perfino il padrone di casa, Bruno Vespa, aveva chiesto a Silvio Berlusconi il nome tanto atteso per il sindaco di Roma. Oh, non aveva detto nulla, neppure un numero di matricola, ma appena dopo, a microfoni spenti... Chi è? E a microfoni spenti Silvio Berlusconi ha tirato fuori il cecio. E Bruno Vespa, il candidato di Silvio Berlusconi per Roma. Ma davvero? Sì, certo, no. L'ha fatto testare, o si dice tastare. Comunque l'ha fatto testare nei sondaggi e il nome dell'illustre giornalista svetta tra le forbici più forbici del trasversale. E tanto per cominciare, sapete, Giovanni, Mario, chi la vota? Chi lo vota? Nessuno. Sapete? Chi lo vota? Nessuno. Come nessuno? Oh no, è lei che lo vota! Una risposta, por favor, che sto cansata e non puedo con el corazon. Una risposta, mi come chi è? Chi è? Non la riconosci? No, che lo signor è Belen! È figura, bella... è quella della farfalla, dai, sì, ma una cosa è sentirla, un'altra è vederla. Se la vedo la riconosco. Figliola non può non votarlo perché, come ha giustamente notato Giovanni, insomma, lo fa anche per gratitudine, perché Vespa ha messo in copertina di Donne d'Italia una farfalla. E infatti non è un omaggio sottinteso del sottinteso, cioè il ricordo delle farfalline d'oro che Silvio Berlusconi regalava alle signorine della televisione. Non è dunque un sottinteso del sottinteso, ma un radicamento, e sempre si benedica Giovanni, dell'inguinale, cioè la graziosa farfalla appunto di Belen, che nel suo interno coscia svettava trasversalmente, e trasversale sarà il voto per Vespa, non al punto di avere il voto di Maria Elena Boschi, quello no, ma l'altra magnifica diva del femminile lo voterà. E sapete qual è? È quella citata appunto, come il sottotitolo del libro Donne d'Italia, Mario? Che so, ma che Dio, leggo il libro Donne d'Italia, ha un sottotitolo, ma c'è, cos'è, è potente, è un libro, sì sì, e c'è scritto, insomma, lo vota, ma non... lei, mica l'ho presentato io. Lo vota Cleopatra, e Cleopatra fa il bagnetto e va a votare il suo candidato, da Cleopatra a Maria Elena Boschi. Ecco, hai visto che te lo ricordi? Ho visto una pubblicità. Allora, allora, la sostanza qual è? Che povero Berlusconi pesca nel palinsesto tutti i suoi candidati. A Milano ha tentato con Paolo Del Debbio e non c'è riuscito. Ora ci riesce con Bruno Vespa. Escludo, il quale, escludo. Il qua, no, tu lo escludi, ma lui ha già pronto un'idea di giunta. La vuoi sapere? Sì. Eccola. I nomi per i futuri assessori della giunta, città di Roma. L'Urbe avrà Valeria Marini alla viabilità, per via delle curve ovviamente, e riparerà tutte le buche della città. Quindi alle periferie sarà chiamato Paolo Crepè. Massimo Franco invece ai rapporti istituzionali, mentre invece l'avvenente, seducente e intelligente e bella Roberta Bruzzone, criminologa, sarà capo dei vigili urbani. Ma la musica poi a un certo punto sparisce? Oggi non funziona niente. No, guarda, lascia stare. È andato giù anche la linea. Senti, qua. Comunque ci hanno scritto un altro sul questo libro ha colpito, però, non so, quale? Bene nel male, Gemminello ha colpito. Gemminello Alvi, lo ripeto, perché se no qui abbiamo una Gabriella che ci scrive: il libro deve essere bello da come ne ha parlato, però mi viene da pensare che l'autore cerca in ogni personaggio qualcosa che vorrebbe avere, hai capito? Riflessione. Beh, questa è bella. Questa è bella. Brava, brava Gabriele. No, non è solo introspezione. È il discorso delle donne dei molti pensieri, un unico atto. Non è più l'intro, adesso faccio quello corto. Non è più l'introspezione psicologica, ma la proiezione psicologica. Accidenti, dopo aver Mario. Detto questo me ne posso anche andare, ma, no? Ma Gordon cosa dice di queste cose tue? No, non lo so, voglio rimandare Gordon. No, dimmi quella cosa che hai detto bells, tu. Jingle bells, okay. Jingle bells. Ma che? Sinatra, che? Mm. mi sa che è tuo, Minoli. Tocca a me, anche Frank Sinatra. Canta Jingle Bell, Natale, bambini, regalo. Mario, tu hai pensato ai regali per i tuoi figli? Sì. Mia figlia ha fatto una lettera, vi posso svelare, sì, che mia figlia ha fatto una lunghissima lettera a Babbo Natale e io mi sono sentito subito tranquillizzato perché alla prima riga c'era l'espressione di questo desiderio. Cioè? Una limousine. L'ha presa bassa. Sì, l'ha presa bassa. E io naturalmente che sono ricchissimo, ho detto non ti preoccupare. Di cioccolata. Di cioccolata pura arriverà. E i tuoi, Pietrangelo, sono grandi. Sì. Come sono passati dal credere a Babbo Natale a non crederci più? Come è andata? Ci credono ancora? Si continua a credere a Babbo Natale. Anche e vorrei dare anche una notizia agli ascoltatori. Babbo Natale esiste ed è San Nicola. Il santo venerato a Bari, altro non è che San quello. Nicola. Non cantava Nicola di Bari? Sì, è il Babbo Natale, il santo a cui è legata la devozione. Certo. Che lega dalle nevi di Siberia al mare di Bari. Mario, se non sai neanche questo. No, ma io sono rimasto fermo al cantante. Vabbè, senti, comunque. Guardate che vi sparo gli overnight. No, ti prego. Comunque, a proposito di Natale, bambini, proprio ieri è stato presentato un nuovo tipo di bioplastica, biodegradabile al 100%, sicura, igienica, creata proprio per i giocattoli, appunto, il Natale. L'hanno realizzato i laboratori Bion, nati nel 2007 in un'ex conigliera a Minerbo, in Emilia, che è sempre più il cuore dell'high tech italiano. Alessandra Fiori ha intervistato Marco Astorri, che è il presidente di Bion. Marco Astorri, un nuovo tipo di bioplastica, ma perché nuova? È nuova perché viene fatta dalla natura, completamente dalla natura, da batteri che in 30-40 ore, cibandosi di fonti di carbonio, producono al loro interno una fonte di energia alternativa che è poliestere, esattamente come quello fatto dal petrolio. Abbiamo scoperto che la plastica esiste da milioni di anni e siamo riusciti a ricavarla dai batteri. Ah, quindi l'innovazione può essere sostenibile? È totalmente sostenibile, ci basiamo su fonti agricole di scarto, in questo caso siamo partiti utilizzando il melasso delle barbabietole, ma tutte le fonti di carbonio, zuccheri di scarto, quindi non competono con le fonti alimentari per l'uomo, possono essere utilizzate per fare biopolimeri. Senta, e qual è il primo giocattolo che avete realizzato? Abbiamo realizzato il mattoncino della Lego, proprio perché è molto difficile da realizzare a 2 millesimi di millimetro di tolleranza e pensavamo di misurarci con qualcosa di molto difficile. Oggi siamo speranzosi di poterlo poi utilizzare su larga scala per altri giocattoli. Ecco, ma possono esserci altre applicazioni per queste nuove plastiche oltre che per i giocattoli? Direi proprio di sì, noi abbiamo già contratti con grosse aziende che operano nell'automotive per sostituire tutte le plastiche delle automobili, stiamo facendo vernici molto importanti per tutto il mondo delle pitture, delle navi, delle automobili e soprattutto oggetti di design, tessuti, quindi veramente molti campi nei quali poter applicare questa tecnologia. Senta, voi siete riusciti a coniugare tradizione tecnica e innovazione radicale in Emilia-Romagna, quindi restare in Italia è possibile? Noi abbiamo scoperto che qua in Italia ci sono eccellenze incredibili, siamo solo imprenditori. Abbiamo scoperto che acquisendo dei brevetti all'estero qui li potevamo sviluppare perché la tecnologia e l'esperienza è ancora presente. C'è veramente tanta esperienza nei nostri ingegneri. Grazie Marco Astorri. Grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Uno degli aspetti interessanti legati alla grande diffusione del fotoromanzo è il fatto che ha una funzione per lo più misconosciuta di alfabetizzazione. Pensiamo a un'Italia povera, a un'Italia dove il tasso di analfabetismo era molto alto, ancora in particolare tra le donne, a un'Italia fatta ancora di paesi in cui non c'era, figuriamoci, il teatro certamente no, non c'era nemmeno il cinema, non c'era nemmeno una libreria, una biblioteca, ma c'era l'edicola. E in edicola arrivano un Bolero, Sogno, Grand Hotel, una ventata di modernità. Una ventata di modernità, così la storica Anna Bravo sul fotoromanzo, nato nel 1946 nella Milano del dopoguerra, diventato in pochi anni un fenomeno editoriale. Grand Hotel, Bolero, Sogno, un po' fumetti, un po' feuilleton, raccontano a milioni di donne italiane una favola sempre uguale, con un principe azzurro, un malvagio e un lieto fine. Lo ritroveremo nelle soap e nelle miniserie televisive, ma non tutte avranno la genuinità e la leggerezza dei fotoromanzi. Fotoromanzo, attori, registi, fotografi e scrittori in un racconto inedito e sorprendente. Qui a Mex 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mix 24. Mario, ti ho preso in giro su motore caldo, motore freddo, ma invece qui ti danno ragione, ragione Mario. Questo paese si merita ancora Cirino Pomicino al posto di Padoan. Vedi, no, no, per dire che se no, capito? Vabbè, mi dai l'altra bolla, Mario? Sì, tua. Dai. Stamattina ha colpito la guerrera con i Queen. Facciamo ancora un po'. È una clear situation, una situazione chiara? Ma non lo so, vediamo. Questo brano si chiama It's Hard Life. E in effetti la vita è dura. E comincia oggi un consiglio europeo a Bruxelles, il consiglio dei capi di Stato. Importante quello di molto importante, sì. Siamo a due giorni, 17-18. In agenda molte cose. Bisogna vedere il conflitto fra la Merkel e Renzi. Se trovano un punto di mediazione sulla Russia, certo, in particolare, ma insomma, sull'immigrazione, e sull'immigrazione, sì, e sulla Siria. Sì. Però secondo me il punto, e secondo anche molti commentatori esteri letti stamattina, insomma, il punto vero qua è cosa fa Cameron con l'Unione Europea, ossia il Brexit. C'è un referendum e per la prima volta, in maniera abbastanza sorprendente per come sono andate le cose finora a Cameron, che direi molto bene, e il risultato è in bilico, cioè c'è un 50-50, un 50-50 di possibilità di restare o uscire dall'Europa. Tradotto in soldoni, 14,5 miliardi di euro l'anno di contributi del Regno Unito all'Unione Europea. Cioè, che saltano, che saltano. Ah, questa sarà la mediazione, tu dici? Comunque, beh, ci sarà una mediazione, sarà, ma sai, sarà un grande Bruxelles, grande trattativa. Come sì, dice. Tieni presente, mercati finanziari, le regole di Bruxelles non sono state molto digerite dalla City. Quindi secondo me tra finanza, economia, un po' di autonomia, immigrazione, perché poi ce n'è. Sì, perché ce n'è. Cameron voleva dare tutti i benefici agli expat, diciamo così. Quindi bene. Bello. Bene, adesso per finire con il professor Roberto Bernabei, come sempre commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più significative del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Annals of Internal Medicine, 22 settembre 2015. Dalla Task Force Prevenzione degli Stati Uniti, le raccomandazioni sugli interventi per smettere di fumare. Oggi negli Stati Uniti ancora il 18% delle persone fumano e il fumo di sigaretta è ancora la causa numero uno prevenibile di mortalità e morbidità. Cioè se uno smette di fumare si previene un sacco di malattie, si prevengono un sacco di malattie e la morte. Allora gli esperti di prevenzioni americani dicono quali sono i suggerimenti da seguire per far smettere di fumare. Intanto i medici devono considerare il fumo come un segno vitale e come la frequenza o come la temperatura. Tanto è importante perché certamente se frequenza e temperatura sono sballate sapete che questo può portare dei problemi. Se uno fuma questo porta dei problemi. Quindi i medici devono mettersi in testa che devono chiedere a loro rutinariamente se la persona fuma o meno. Poi bisogna consigliare di smettere in modo personalizzato, cioè bisogna a ognuno cercare il punto debole su cui lavorare per farlo smettere. Poi bisogna valutare la voglia di smettere che ha la persona, perché è evidente che se non c'è il contributo personale si va poco lontano. Bisogna assistere il paziente, lo chiamo paziente, durante il periodo della cessazione del fumo e bisogna seguirli nel tempo, non bisogna mollarli, bisogna stargli in qualche modo vicino. Insieme a questo le raccomandazioni dicono attenzione, guardate che le gomme americane, i cerotti, insomma le varie somministrazioni di nicotina in modo alternativo funzionano e funzionano ancor di più se associate a dei farmaci. Ricordatevi questi nomi: il bupropione e la vareniclina funzionano. E funzionano se associate anche al cerotto o alla gomma di nicotina.